Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti. Di Leonardo Manera e Daniele Ceva. E perciò bentornati ad Avanti di Manera, questa trasmissione che si rivolge agli abitanti di tutta Italia, compresa la Sicilia, noi vogliamo rivolgere in modo specifico. Saluto anche tutti i miei parenti di Campobello di Recata, essendo io originario di Campobello di Recata. Sì, è il momento perciò, simpatia per schiacciare, per fare l'occhiolino anche al sud. Io lo faccio, esatto, perché Radio 24 è più ascoltata al nord, mi dicono. Sì. E quindi noi con questa cosa che facciamo sta parlata, faremo tutto questo blocco parlando in questo modo, per essere simpatici verso tutti gli amici della Sicilia, in particolare Campobello di Legata. Ceva, spieghi lei qual è la destinazione, la mission di questo programma. La mission di questo programma è di fare venire a galla, di fare affiorare quelle notizie che sono spesso dimenticate, abbandonate, che sono lì in un angolino dei notiziari, dei giornali. Noi invece ce ne prendiamo cura, le andiamo a cogliere come dei diamanti preziosi in una miniera e le portiamo a voi. A voi, perché sono notizie magari curiose, anche piccole, che non hanno mai l'onore delle prime pagine, ma attraverso le quali si può anche capire un po' dell'Italia e degli italiani. Ad esempio, vogliamo partire con una notizia che ricaviamo proprio dal Corriere della Sera, cronaca di Milano, e la notizia è questa: va all'estero un imprenditore e fa richiudere la fidanzata troppo bella, una cosa che si pensava non succedesse più, e invece cosa succede? Una fidanzata troppo bella è molto più giovane e il folle tarlo della gelosia ha consumato. Un mix esplosivo, in questo caso soprattutto perché lui, il geloso, si deve assentare per qualche giorno per lavoro e lascia la compagna sola in città, come succede spesso a lei, Ceva. Esatto. La moglie in vacanza e l'amante in città. Era un è così film. Che un commerciante, non un imprenditore, un commerciante milanese si è messo nei guai. Ha pensato bene di chiedere un favore all'amico di sempre. Ha detto: vado via, cerca di non farla uscire, altrimenti me la rubano. Adesso. Ma mai lasciarla all'amico, perché poi spesso è proprio l'amico quello che c'è il codificatore. No, il fido amico ha eseguito alla lettera per 4 giorni, gli ha detto di sorvegliare, lui l'ha chiusa in casa, lei ogni tanto diceva fammi uscire, lui diceva no, voglio essere ligio a quello che mi ha chiesto l'amico. Certo. Come ha fatto ad uscire questa ragazza e avvertire i carabinieri? Ma ha approfittato di un momento di ebbrezza da parte di questo amico, del fidanzato. Lei ha pensato, gli uomini sono un po' stupidi, avrà pensato. Sempre, sempre abbastanza coglioni, basta farlo bere, esatto, promettendoli magari insomma no, neanche, non gli ha promesso niente. Gli ha preparato una sangria, addirittura con la sangria, quindi ne ha dovuto bere un sacco, no, solo 2 bicchieri sono bastati. Allora cosa aveva, 8 anni questa, sono bastati 2 bicchieri di sangria e hanno messo a terra completamente l'uomo, completamente ubriaco. Allora, approfittando del suo stato di ebbrezza, Deborah, questa ragazza, ha telefonato un'amica che a sua volta ha chiamato i carabinieri. Adesso il gelosissimo Stefano viene denunciato per sequestro di persona, mentre l'amico Luigi è finito in cella per lo stesso reato. Ah, pensavo perché si è ubriacato con 2 bicchieri di sangria, che è un reato ahimè peggiore. 2 bicchieri di sangria sono, insomma, non sono una quantità nulla, dovrebbe essere nulla, enorme. Però per quando lei Manera, lascia la sua fidanzata sola e va a fare i suoi spettacoli, le sue serate, lei si fida io della fidanzata. Io faccio pochissimi spettacoli, pochissime serate, quindi non è un mio rischio, comunque non la lascerei mai in mano sua, Manera. Farebbe male. Allora, e invece, allora, dove si trovano le soddisfazioni se non nell'amore, che creano sempre confusioni, fraintendimenti, discussioni? L'amore è destinato a finire, insomma, meglio trovare soddisfazione altrove, per esempio nella creatività. Sì, nell'arte? No, non nell'arte. Non è arte. Bisogna inventarsi, è un periodo questo di crisi in cui tanti non hanno il lavoro, e allora questi due ticinesi hanno deciso, sì, da 2 settimane o poco più, di vendere cacca. Esatto. Basta un paio di click su internet per ordinare sterco proveniente dalla scuderia San Lucio di Bogno. Perché dovrei ordinare dello sterco con 2 click? Mi dica lei, Valeria. Sei stato licenziato senza un valido motivo, il tuo partner ti tradisce e vuoi spedire a qualcuno un regalo divertente? Shit Delivery è perfetta per te. In modo anonimo spediamo fantastici pacchi di sterco di cavallo al 100%. Che meraviglia. Made in Switzerland, in Svizzera, puoi personalizzare il pacco con un tuo messaggio, questa è la cosa bella. bella. E noi lo spediamo in tutto il mondo. E funziona questa cosa, perché hanno già parecchie ordinazioni e anche voi potete ordinarla e fare dei regali di questo tipo sicuramente. Mi ha già risolto 3 o 4 regali di Natale. Sì. Me lo segno. Qual è la morale di tutto questo? Anche con la cacca si può fare qualcosa di buono. Del business. Allora, visto che noi però vogliamo anche essere super simpatici, abbiamo anche delle battute, visto che questi sono inventati un lavoro, noi abbiamo delle battute ad hoc sulla disoccupazione. Per esempio, con la crescita zero l'Italia invecchia, tra un po' avremo un pensionato a carico di ogni disoccupato. Questa è di Altan, il famoso disegnatore satirico italiano. Allora vediamo questa. Si chiama curriculum vitae perché passerai la vita a consegnare il curriculum. Di un anonimo in cerca di lavoro, probabilmente. Esatto, che sul curriculum metteva anonimo, però è quello che non l'ha mai trovato. In Italia un giovane su due è disoccupato, l'altro sta seguendo un programma di formazione per diventare disoccupato professionale. Chi ride tra l'altro è disoccupato. Ma no, è qui il nostro regista Pietro La Corte. E allora, siccome questo dello sterco è un regalo un po' strano, abbiamo cercato di capire con qualche telefonata fatta a caso se qualcuno di voi ha ricevuto qualche regalo particolare. Vediamo cosa ci avete risposto. Pronto? Pronto, buongiorno signore, Radio 24, la radio del sole 24 ore. Lei ricorda qual è il regalo più brutto che ha ricevuto? Che posso dire, un soprammobile. Chi gliel'ha regalato, lo ricorda? Un'amica. Un'amica. E lei gliel'ha fatto notare che era una cosa brutta alla quale avrebbe rinunciato volentieri, oppure ha fatto finta di niente? No, non sono così, io ringrazio. Però poi ha rotto i rapporti con questa amica? No. Un oggetto brutto? Un oggetto, sì. E ogni volta che lo vede un po' si amareggia? No, assolutamente, penso che sia un suo gusto, poi non è che era una cosa di gran valore, per cui... Ah, quindi era brutto ma anche economico, quindi questa sua amica le ha fatto una cosa di cattivo gusto anche per risparmiare, quindi una persona spiacevole. No, assolutamente, solo perché di carattere è così e quindi... È un po' tirchia sì, questa persona. Sì, i suoi gusti non è... Vuole dire anche come si chiama, così glielo diciamo? Ah no, questo no, Carmela. È tirchia, ma è anche il suo gusto per certi versi. Non ah, è quindi che... è anche una persona di cattivo gusto? Sì. Ha un altro lato negativo da dirci di questa Carmela? Come va, signor? La sento un po' giù di morale, c'è qualcosa che non va, possiamo aiutarla? No. Va tutto bene? Tutto a posto, sì, grazie. Le dico una battuta, così si tira su di morale, mi dica se le piace. Quando di notte soffro di insonnia, prendo dei lassativi che non dormo lo stesso, però almeno ho qualcosa da fare. Ah, ottimo questo. Gliene dico un'altra, signora, così si tira su di morale. Due arance litigano e una dice all'altra, ti spicchio. Sai che le arance sono fatte a spicchi? Sì. Quindi c'è il doppio gioco di parole su ti picchio e ti spicchio. Ah. Le è piaciuta? Non tanto. No. Devo chiudere, buonasera. Buonasera. Allora, questo è il frutto delle nostre ricerche, le nostre telefonate a caso che facciamo così a voi, e siete sempre gentili quando ci rispondete, ma inventarsi un lavoro non è facile e a volte insomma le persone anche per riuscire a racimolare qualche soldo vanno a rubare, è una cosa che capita insomma, ma non sempre va bene. Ad esempio questo ladro, questa notizia, ladro perde zaino durante tentativo di furto e torna indietro a chiedere al padrone di casa, non il tentativo di furto, torna indietro a chiedere lo zaino che aveva perso. Certo, e il padrone di casa? Il padrone di casa gliel'ha reso. Beh, se no sarebbe stato a sua volta un furto. Perché il ladro ha detto, guardi, qui dentro ci sono dei documenti importanti, mi servirebbero. Cioè. E il padrone di casa, che evidentemente era una brava persona, ha detto, perché creare ulteriori problemi a questo ladro che probabilmente ne ha già abbastanza. Ma gli ha lasciato la rifurtiva anche oppure se l'è fatta... Questo non c'è scritto. Ecco, se ormai gliel'ha lasciata, ha avuto un... Ma era sì. Gandhi, è Gandhi, è andato a rubare Gandhi in casa altro. Di Gandhi. Guardate che è una notizia vera. Se lo so, questa è la voce di chi? Cioè, del ladro, no, che ha lasciato, era un bambino, un ladro bambino. È di mio figlio Beniamino. Suo figlio è già ladro, lei gli ha insegnato a rubare già, come lei ruba lo stipendio. Dica qui una battuta sui ladri invece di perdere non tempo. Non è giusto, sto pagando per qualcosa che non ho fatto. Ah, e allora perché sei stato incarcerato? Perché non ho cancellato le impronte dalla cassaforte? Questa è dell'amico Giovanni Cacioppo, quella che dico adesso. Arrestato ieri all'alba il famoso criminale Rocco Testa di Cane. Aveva tentato un furto nella villa di un noto boss mafioso. All'arrivo del padrone di casa è stato lo stesso ladro a chiamare la polizia, perché era a casa del boss mafioso. Detta da cacciopo viene meglio. Anche secondo me. Ma la mia preferita è questa: ruba galline e viene beccato. A me fa riderissimo. Anche a me. Ma si può essere ladri non solo, Ceva, di oggetti, ma anche d'amore. Di istanti. Di istanti d'amore. Io sono stato molto colpito da questa notizia, perché è successa la cosa che vorrei sempre capitasse a me, ma non mi è mai capitata nella vita. E adesso scopriremo come mai. Sesso con uno sconosciuto nel parcheggio. Eravamo bloccati nel traffico ed è scoccata la scintilla. Sì, ma erano nel parcheggio, non erano bloccati nel traffico. Prima erano nel traffico, poi si sono appartati nel parcheggio. Cioè, una donna racconta alla rubrica del tabloid britannico The Sun di aver fatto sesso bollente con un ragazzo meraviglioso e sconosciuto. La donna, 30 anni, sposata, nella sua confessione al giornale racconta di non riuscire a pensare ad altro. Lavoro molte ore, spesso sono lontana da casa. Stavo tornando a cenare con mio marito quando sono stata bloccata nel traffico. Ero arrabbiata quando ho notato un ragazzo nella macchina accanto che guidava. Abbiamo cominciato a scambiarci sguardi e sorrisi e lui mi ha fatto dimenticare la noia di essere bloccata nel traffico. Si calmi. Questo è veramente incredibile. Ma ha ragione, ma io ho capito perché a lei non è mai capitato. Perché? Si muove con i mezzi, Manera. Prenda la macchina. Ma voglio prendere sempre la macchina. Si infili nel traffico milanese con la macchina. Vabbè, chissà chi... Andiamo con la nostra rubrica. Siccome le previsioni del tempo spesso sono sbagliate, noi abbiamo questa rubrica che sono le constatazioni del tempo. Cioè chiediamo che tempo c'è stato la settimana scorsa. Vediamo chi di voi ci ha risposto. Pronto, buongiorno signora. Noi abbiamo una rubrica in radio che si chiama Constatazioni del tempo, dove chiediamo che tempo c'era la settimana scorsa, in questo caso domenica scorsa. Lei ricorda? La settimana scorsa? Domenica scorsa, per l'esatto. Domenica è stata una bella giornata. Posso chiederle dove abita? Io abito a Cosenza. A Cosenza, in Calabria, quindi? Comunque lei mi vuole pigliare in giro, è una informazione seria. No, è un'informazione seria, veramente. Radio 24 è una radio seria e facciamo questa rubrica per sapere che tempo c'era la domenica precedente. Io la ringrazio. Sento una voce in sottofondo. Chi è? Chi sta parlando? È mio figlio. Ci passi anche lui, che chiediamo anche a lui. Arrivederci signora. Sì, dite. Qui è Radio 24, la radio del sole 24 ore. Abbiamo una rubrica che si chiama Constatazioni del tempo. Chiediamo che tempo c'era domenica scorsa. Cioè, domenica scorsa, non mi ricordo. Che tempo faceva domenica scorsa? Era variabile, mi stanno dicendo. Quindi secondo lei sarebbe stato il giorno ideale per fare cosa? Per fare cosa? Una camminata. Non per andare al mare, come dicono alcuni, andare sulla Sila? No, va benissimo, la Sila è bellissima, io preferisco i monti al mare. Lei scia? No, non scio. Nuota? Sì, nuota. Già quello è bello, insomma. Va bene, la ringrazio. Arrivederci a lei. Guidate con prudenza. Dall'ascesa dello Stato Islamico all'immigrazione verso l'Europa, dal boom economico dell'Africa ai suoi infiniti conflitti. Giornalisti, fotografi, analisti, politici, operatori umanitari e cittadini saranno ogni giorno ai nostri microfoni per raccontare ciò che accade al di fuori dei nostri confini. Sono Giampaolo Musumeci e anche quest'anno vi dimostrerò che tutti i luoghi meritano di essere visitati, che tante storie devono essere raccontate, che guerre dimenticate e vicende apparentemente distanti sono molto vicine a noi ed entrano ogni giorno nella nostra vita. Vi dimostrerò insomma che nessun luogo è lontano. Dal lunedì al venerdì alle 16 qui su Radio 24. Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti. Bentornati ad Avanzi di Manera, vi ricordiamo ancora una volta, come facciamo tutte le settimane, che ci potete scrivere al nostro indirizzo mail avanzidimanera@radio24.it. Potete sia indicarci notizie strane, curiose, di cui noi non abbiamo conoscenza, oppure potete anche darci, se volete, qualche numero di telefono al quale noi possiamo eventualmente telefonare per i nostri sondaggi, per i pareri che di settimana in settimana vi chiediamo. Ma continuiamo con le notizie. è uscita questa classifica dei nomi più sexy in questo giornale online che è overpress.it. Dei nomi più sexy per chi? In generale, donne, per gli uomini. È un sondaggio probabilmente. Certo. Allora, vediamo quali sono i nomi più sexy. Il nome in assoluto più sexy è Alessandro. Perché? Dice per la O finale, come quasi tutti gli uomini. Esatto, come Roberto. E per la doppia S, che sembra dia un tocco di virilità. Alessandro. Senti già, è lì, l'orgasmo è dietro l'angolo. Prepara la O orgasmica, cioè le due S preparano questa O orgasmica. Subito dopo Alessandro ci sono Lorenzo al suo Lorenzo, Lorenzo al secondo posto. Poi Res. Non dice il motivo di no, Lorenzo. Perché ha la O finale. Poi Ret o Ref, non so come ma si Ret, vabbè, ma ovviamente questo è straniero. In Inghilterra. Romeo al terzo posto, al quarto anzi posto. Matteo, Dimitri, Dane, Marcello, Dante e Remy. Dolce Remy. Io non avrei mai pensato che Remy fosse un nome non sexy. Lo so, quasi quasi io cambio il nome in nome d'arte Remy. Remy Ceva. Le piace. E invece le donne, quali sono le donne con i nomi più erotici e sensuali? Al primo posto Scarlett sarà derivante. Beh, Johansson, certo. Che equivale al nostro Rossella. Rossella che ha la doppia S come Alessandro. C'è anche Rossella. Sesso. Poi c'è Nicoletta. Nicoletta come Nicoletta Carbone di Radio 24. Nicoletta. E noi citiamo volentieri tutti i giorni Cuori e Denari con Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone, tutti i giorni alle 11 se non sbaglio. Quindi Nicoletta Carbone, Natalia o Natalia, Anais, nome Anais, ma ne Anais perde completamente l'aspetto erotico. A me piaceva Anais. Ciao, ma Anais, come stai? Ma se lei la chiamassero Leonardo, cioè, capisci che già non è sexy Leonardo, si figuri. Paolina. Alessandra. Per il motivo Chanel. Soraya, come ti chiami? Soraya. Adriana e Giuliana. Giuliana. I nomi meno apprezzati sono invece Howard, Bob, Ernesto, Norm. Ma chi se ne frega? Probabilmente Norman, se non sono in classifica. Gertrude, Agnese, Mildred e Berta. Berta effettivamente non è bellissima. Sono andato a letto con la Berta. Io ero con l'Agnese, lo sai o no che ero con l'Agnese? Io con la Berta. Di tutti anche io con la Berta abbiamo fatto delle cose. Ma è importante avere un nome sensuale erotico perché dà un aspetto alla persona, perché insomma in questo nostro tempo è importante anche essere accattivanti sia dal punto di vista del nome ma ancora di più dal punto di vista fisico. Qual è la notizia, Ceva? Parliamo di piedi, i piedi che di solito sono un oggetto un po', insomma, da feticista, un oggetto, una parte del corpo molto importante per alcuni dal punto di vista sessuale. Ecco, qui ci sono delle donne che si tagliano le dita dei piedi per avere i tacchi più alti. Sempre più donne, anziché cambiare scarpe e scegliere più comode, scelgono invece di cambiare i propri piedi. Alcune si fanno iniettare un collagene in punti strategici, altre invece chiedono di accorciare le dita dei piedi e altre chiedono direttamente che una o più dita siano rimosse per calzare le scarpe più comodamente. Ma io non capisco, però, cioè, teoricamente più alto il tacco più dovrebbe va essere lungo, va a spingere avanti. Invece se tu hai il piede che si tronca come un martello, diciamo, non hai il fastidio delle dita, quindi molte donne chiedono di farsi fare un piede in cui tutte le dita hanno la stessa lunghezza. Ma a questo punto, ma perché allora togliere, cioè togliamo direttamente il piede e facciamo che il polpaccio finisca a tacco? Ma sì, come attacco, cioè avere due tacchi al posto delle gambe. E queste sono delle deviazioni femminili, vedi. Vabbè, che a volte non sempre si dice che le donne sempre sono più avanti. Questa mi sembra una cosa che chiedono le donne, che mi sembra assolutamente fuori luogo. Stupidissima. Incredibile, ma vero. Ma infatti quello che stavo appunto dicendo. Allora, battuta sulle scarpe: per ogni paio di ferri di cavallo che gli uomini usano come portafortuna, c'è da qualche parte del mondo un cavallo a piedi scalzi. Un tale fa un numero e chiede: pronto, chi parla? Calzaturificio di Varese, ho sbagliato numero, le porti qui che gliele cambiamo. Ma di chi è questa battuta? Questa è citata Nanni Svampa. Ah, ho capito. Pensi che io la facevo pensando fosse mia, ma allora mi sono accusato di copiarla da Nanni Svampa. Allora, adesso noi ci vogliamo occupare invece di cibo. Abbiamo una classifica dei cibi che creano più dipendenza. Prima abbiamo telefonato a voi per sapere quali sono i cibi ai quali, anzi, voi non potete rinunciare. Sentiamo cosa ci avete detto. Pronto, buongiorno signora, qui a Radio 24, la radio del sole 24 ore. Stiamo facendo un sondaggio per capire quali sono i cibi che creano dipendenza. C'è un cibo al quale lei non riesce a rinunciare? Bella domanda. Pizza? La pizza. E dopo la pizza cosa mette al secondo posto fra i cibi che creano dipendenza? Patatine. E al terzo posto? Rustici. I rustici? Mm-hmm, da, sì. da dove chiama? Dalla Puglia, immagino. Mi ha citato i rustici. Esatto. Dove abita in Puglia, signora? Foggia. A Foggia. Non voglio essere invadente, ma posso chiederle quanti anni ha? 30. È single? Sì, sì. E come si trova una donna single a Foggia? Cioè, ha occasione di conoscere uomini interessanti oppure no, secondo lei? Se la cerchi, c'è. Visto che siamo in radio, vuole definire, senza dire il suo nome, ma qual è il suo profilo di uomo preferito? Per me è una questione cerebrale proprio. Quindi deve essere un uomo intelligente con cui stabilire... Sì, ironico, autoironico, sì sì, assolutamente, è una questione cerebrale. Lei conosce Leonardo Manera? No. No. Va bene, la ringrazio e allora auguri in bocca al lupo per tutto. Credi. Io? No, il lupo, grazie. Lupo? Non lo so, beh, faccia lei. Grazie, signora. Va bene, questo era quello che ci è stato risposto. E vediamo, c'è invece questo sondaggio realmente che dice quali sono gli alimenti che creano più dipendenza. C'è stato questo studio condotto da questa dottoressa che si chiama Avena, guarda caso. Allora, la dottoressa Avena ha fatto questo sondaggio. Al primo posto, nei cibi che creano dipendenza, c'è la pizza. Al secondo posto il cioccolato. Al terzo le patatine, poi i biscotti e il gelato. Invece gli alimenti che non creano dipendenza sono il cetriolo. Chi l'avrebbe mai detto? Le carote. I fagioli e le mele. Beh, in effetti sono quei cibi che insomma, d'estate si mangiano, ma non sono proprio golosi, non sono da golosi. Non danno soddisfazione. E quindi se non volete avere dipendenza da cibo, mangiate solo cetrioli. Come esatto. Sa? Lei è soddisfatto di questa sua dieta? Ma no, io guardo, io quello che mi dà dipendenza sono dei cioccolatini all'eroina. Non bravo. So come... Dia questi bei messaggi che il nostro curatore Guido Scotti condivide, va bene? Allora, via, basta notizie. Noi abbiamo una rubrica, siccome quello che si vede in televisione sono sempre le stesse cose, e abbiamo una rubrica che sono le idee di Daniele Ceva, dove Daniele Ceva ci propone nuovi programmi dei per nuovi i format televisivi. Mi faccia la sigla. Le idee di Daniele Ceva. La sigla da pelle d'oca. Bellissima. Allora, l'idea mia che propongo ai produttori televisivi questa settimana è macellerie vegane. Per chi non vuole perdere il gusto di andare in macelleria ma è diventato vegano, e anche i macellai stessi che magari nella loro vita decidono di cambiare dieta, diventare vegani, questa trasmissione deve far vedere questi macellai che modellano, costruiscono dei capi di bestiame, delle mucche, dei polli tutti fatti di tofu e seitan. Lei la guarderebbe, Manera? Ma esistono già cioè l'arrosto vegetariano fatto col tofu? Sì, ma quella è un'altra cosa. È una cosa che esiste già. Ma no, non esiste, sono proprio gli animali fatti di tofu. La sua idea è irrilevante, inadatta. Non è vero, lei immagini una mucca vecchia fatta di tofu, non mi piace per niente. Macellerie vegane. Va bene, abbiamo finito questa puntata. Prima di terminarla finiamo sempre con degli avanzi di poesia, cioè con una poesia sconosciuta che noi vogliamo rendere nota. Questa è di Maria Luisa D'Arrigo. Gli sguardi sconosciuti. Gli sguardi sconosciuti. A volte due sguardi sconosciuti si incrociano e si trasmettono messaggi muti che solo il cuore può capire. Solo il cuore. Essi, questi sguardi sconosciuti, hanno un fascino particolare ed è il destino che li fa incontrare. Gli sguardi sconosciuti sono come fulmini a ciel sereno. Si calmi, Manera. Che ti sconvolgono la vita per un attimo, ma poi in silenzio si allontanano, lasciando l'anima perplessa e pensosa. Perché resta pensosa l'anima? E perplessa, perché? Perché questi sguardi sconosciuti non hanno un seguito, come è successo alla ragazza di prima che ha visto quest'uomo nel traffico e via. Ha dato seguito e ha dato corpo a questo sguardo sconosciuto, che è la cosa che tutti noi... È rimasta tutt'altro che pensosa, è passata all'azione, non è stata lì a pensare. Ed è la cosa che noi vi invitiamo a fare nel traffico, datevi da fare, date corpo a questi sguardi che si incrociano per dare un senso anche a questo sabato sera mentre siete in coda per andare al ristorante, perché discoteca. Perché per l'amore, il sesso, il semaforo non è mai rosso. Non è mai rosso. Bene, abbiamo terminato, ringraziamo Marco Del Conte, il nostro coach, autore Pietro Lacorte, in regia il curatore Guido Scotti, Daniele Ceva e Leonardo Manera. Ciao, buon sabato. settimana a tutti.